Ed eccoci qui pronti a svelare l'arcano cosa fermò i Led Zeppelin nel lontano 5 luglio 1971 in questa esibizione milanese. Tre le ipotesi, come al solito, che vi proponevamo. La prima, un blackout che rese impossibile l'utilizzo delle apparecchiature. Era questa l'ipotesi esatta? Ai ai ai, verosimile ma sbagliata. Zero punti per la vostra patente da vero rocker. E allora passiamo alla seconda ipotesi, dove si prevedeva l'interruzione dell'esibizione a causa del lancio di fumogeni da parte della polizia che cercava di fermare le proteste contro il prezzo del biglietto. Era questa quella giusta? Le dirò, accadeva molto spesso a quel tempo. Ed è la risposta esatta. Proprio per questo l'unica esibizione italiana dei Led Zeppelin non fu portata a termine. Le cronache ci ricordano come Richard Cole, il manager degli Zeppelin di quel tempo, insieme ai Roadies, tentò di fermare le prime ondate di ragazzi che cercavano di mettersi in salvo sul palco. Dopo un po', capendo che la situazione stava degenerando, prese il suo gruppo e, sfondata la porta di un camerino, ci si rifugiò assieme ai musicisti fino a che non si calmarono le acque. La strumentazione del palco, raccontano le cronache, fu totalmente distrutta e non venne mai più fatta nessun'altra data italiana in tutta la carriera della band. Gli stessi Page e Plant dichiararono che quella fu l'unica situazione in anni e anni di concerti fatti in giro per il mondo in cui credettero sul serio di poter morire. Poveri. E l'Italia si distingue sempre per gli effetti speciali. Scriviamo un bigliettino a Page & Plant, non siamo più cattivi, non ci interessa quanto costa il biglietto, tornate. Ma certo, certo. Adesso noi italiani siamo tra l'altro diventati tutti ricchissimi, esatto. Per cui non contestiamo più i prezzi dei biglietti. L'ipotesi numero 3 quindi era farlocca, nessuna indigestione di pasta asciutta per Jimmy. Benissimo, ma prima di chiudere, so che lei preme per la sintesi, giustamente, di DJ Ari, io vorrei ricordare tempi radiofonici, esattamente, a tutti gli sbarbini e le sbarbine che ci stanno ascoltando, che mica stiamo parlando di fuffa, parliamo dei Led Zeppelin, signori, che hanno dato là il via a tutto l'heavy metal successivo, a tutto l'hard rock, signori. Dice, siamo bene. In piena storia del rock. E noi a Milano ce la siamo fumata, ma anche goduta qualche volta, fumata nel senso di goduta, perché a volte il fumo è meglio dell'arrosto, sa? I'm Communication Breakdown, Led Zeppelin, celebrati anche sonoricamente, oltre che nella domanda di quest'oggi del nostro test attitudinale. Buona giornata, qui c'è pane, burro e rock and roll e Wilson Pickett. Era un po' che non lo sentivamo. Hello Sunshine. I'm so glad to see you. È il nostro modo di augurarvi una buona giornata. Il sole ormai è salito anche qui, eh? Continuano le domande inquietanti sul nostro oggetto di culto, la patente davvero rocker, che si chiede come si tiene il conteggio dei punti. Allora, il conteggio dei punti è in autocertificazione, l'abbiamo sempre detto. Quindi siete voi che ve li contate. Ma vi avviso da subito che in tutte le volte che porteremo la patente davvero rocker dovrete compilare il test attitudinale, che sarà fatto da domande già andate in onda nel corso delle trasmissioni, ok? Quindi qualsiasi punteggio voi avete accumulato, in realtà poi dovete guadagnarvela sul campo. È una fregatura, sì. Sunshine. Yeah. I'm so glad to see sunshine. Saluto a Jack L, preoccupato che non sa come venire domenica. Oh ragazzi, poi andremo in giro, la porteremo, cerchiamo in tutte le città coperte da Rock FM. Saluti a Fede Prog, saluti a Silver Metal che chiede se lo accompagniamo alla sua laurea. Ma certo, strombazzata anche, stai in una botte di ferro Silver Metal. Ma non è che saremo un po' troppi? Che ogni giorno qua continuate a scrivere: non vorrei che diventiamo troppi. A qualcuno salta in mente di fare una lista civica, poi ci saltano addosso, ragazzi. Secondo me è meglio smetterla di dire che siamo in tanti ad ascoltare pane, burro e rock and roll. Non vorrei che venissero strane idee. Proseguiamo con gli Who, che è meglio. Substitutes. Substitutes, my coke for gin. Substitutes, you.

per magnificare questa rubrica di pane, burro e rock and roll. Di cosa sta che parlando? Davvero tiene la rubrica delle news. Le news, strano le notizie, vero? Esatto. Le ansie in ansia. Esatto, le ansie in ansia, laddove scopriamo che la realtà supera dei personaggi e che la realtà supera di gran lunga la fantasia. Un occhio privilegiato di pane, burro e rock and roll sul mondo, mondo. E lo facciamo solo per voi. Lei dovrebbe fare radio, sa? Dovrebbe fare un programma. Lo so, mi devo decidere uno di questi giorni. Ci trasferiamo quest'oggi in Texas. Chissà in quanti di voi avranno subito furti nelle loro case. Lei è mai capitato, Frick? Ahimè sì, ci si rimane, ci resti rimane molto male. Bruciacchia, come si dice dalle mie parti, ti e brucia, non si può specificare brucia esattamente dove. Possiamo specificare, a proposito di bruciacchiato, cosa è successo a questo ventenne texano che si è trovato di punto in bianco dei cosiddetti topi di appartamento che erano entrati dal tetto, dal comignolo. Il buon ventenne ha avuto un'idea brillante per far scappare i topi d'appartamento. Cosa ha fatto questo ventenne pieno di iniziative e di risorse? Guardi, ha avuto l'idea geniale di dare fuoco al tetto dell'appartamento, bruciando interamente la casa. Ah, colpo di scena. L'incendio appunto non è avvenuto per errore, ha danneggiato l'abitazione in maniera abbastanza grave, stando a quanto riferito dall'emittente americana KSAT TV di San Antonio. Complimenti per il nome, tra l'altro, della televisione. Sì. Il giovane sentenzia: ho appiccato il fuoco alla casa dei miei genitori per cacciare i ladri, sono riusciti a prenetare dal solaio, ma viste le fiamme se la sono data a gambe. Se la casa fosse stata di proprietà non vi sarebbero stati neppure grossi problemi, ma l'abitazione andata in fumo era dei genitori del giovane piromane. Ora dovranno ricostruire il tetto, andato completamente distrutto. Per farlo dovranno spendere più di quanto avrebbero speso per riacquistare gli eventuali oggetti rubati. Grande idea questo texano, eh? Ma sì. Li crescono a bistecche e grandi idee da quelle parti. ma sì, come amici, se voi decideste di bruciare il vostro motorino, no, pur di non lasciarlo, esatto, al teppista di turno. Non fatelo. Io non avrò più il motorino perché me lo stai rubando. Ma nemmeno tu te lo puoi godere perché te lo brucio. Lascia stare che il motorino è mio o era mio. Ma intanto facciamo tesoro delle notizie di pane, burro e rock and roll. L'happy ending di quest'oggi è: se arrivano i ladri in casa, non bruciatevi l'appartamento. Scrivete. Molto giusto, molto giusto. Così come dovete ricordarvi, fate tesoro di questa esperienza, sì, bruciatevi il bene, ma non lasciatela, sì, al ladro. Ma e ricordatevi, sì, anche, sì, che potete lavorare nudi purché non, no, attiriate l'attenzione degli altri. In che senso? No, nel lei senso vorrebbe che lavorare nudo? No, non è per questo che, no, mi sto togliendo i calzoni, no, ma perché si qui rimetta fa i pantaloni, fa molto, per favore, va bene, si rimetta i pantaloni, va bene, ma qui fa un caldo dell'anima. Sì, accendi il condizionatore, Spadino, andiamo, tiri sui pantaloni. Va bene, era solo per darle un'altra notizia, un'altra notizia straordinaria. Alla prossima. One, two, one, two, three, four. Can't Live Without You, dichiarazione d'amore nei confronti dei nostri radioascoltatori. A interpretarvela erano gli Scorpions. Mancano pochi minuti al termine della diretta di quest'oggi. Però è giovedì, ve l'avevamo promesso, abbiamo sdoganato in settimana il gioco del lotto, in molti si sono lamentati, ma noi per certificare che i nostri numeri del lotto sono rock, possiamo garantirvi che non usciranno mai. Di nuovo un buongiorno a Carlo, abbassa sempre un filo la radio, che tanto mi senti dal telefono, il nostro tabaccaio di riferimento qui a Milano che ci aiuta nella costruzione delle triplette o delle terne, come si chiama? Sì, delle terzine, sì, triplette, terni, diciamo, terni genericamente chiamati così. Terzina mi piace di più perché è un po' musicale. È vero, terzina è più bella. Esatto, quindi teniamo terzina. Allora, con Carlo è dalle 7 di questa mattina che ci sentiamo via mail e via telefono per farci venire una buona idea. Non ce n'è venuta in realtà nessuna di buona, se non che Carlo si è fatto prendere da una notizia data nell'almanacco della primissima mezz'ora. Precisamente, sì, dato da Fricantoni a riguardo della chiusura delle case di tolleranza, diciamo, ai bordelli. Esatto, avveniva il 20 di settembre, che è oggi del 1958. Quindi che numeri proporresti? Ricordo che questi numeri non usciranno, quindi sono rock. Vai Carlo. Quindi io suggerirei 4, che è ovviamente il piacere, sì, riferito alla casa di piacere, il 48, la castità che se ne va, sì, e l'81, riferito al bordello. Buona! Io posso permettermi, perché fino a qualche secondo fa anch'io avevo una tripletta, una terzina sulla legge Merlin, e quindi mi ero tirato fuori anche chiusura di bottega, che secondo me ci stava, ed era il 90, sempre la paura. A me viene sempre il 90, non riesco a capire perché. Però tu non puoi saperlo, perché in fuori onda mi è arrivata una mail che mi ha molto colpito, di un radioascoltatore che si firma Zio Costa, che si riferisce al concerto dei Led Zeppelin del quale abbiamo parlato nel test attitudinale. Lui a 11 anni c'era. Ah, è andato. Splendido. Allora volevo dedicare la terzina a lui e farei il concerto che è il 31. Perfetto, bellissimo. O Chiant, che è le lacrime, i pianti per i lacrimogeni. Volevo contestualizzarla così. Ed era il 65. E poi, visto che anche lui fa autoironia sulla sua non più verdissima età, visto che è stato fortunato a vedere gli Zeppelin, in realtà non vederli perché non è nemmeno riuscito a entrare, ma poi li ha visti nel 79, vorrei dargli de O Vecchio, che è il 53. Benissimo. Carlo, non usciranno mai, dovessero uscire, il mio numero di telefono della radio ce l'hai, eh? Tranquillo, io li ho già giocati tutti questi qua, quindi. Perfetto. Ci si risente martedì, allora. Va benissimo, ok. No, ricordiamo dov'è la tabaccheria, dai, per gli amici di Milano. Qui ok, in San Martini 69, fianco stazione centrale. Perfetto. Ciao Carlo, martedì. Ciao, arrivederci, ciao. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. E arriviamo anche quest'oggi al termine del minutaggio a nostra disposizione, anche quest'oggi con gli Stones romantici di Lady Jane. 8:58 è la fine, miei cari amici, è la fine. Un saluto a chi ha scritto deficienti, ho preso un paletto e ho rotto la macchina per colpa vostra. Un saluto a chi mi scrive, curiosità dall'Italia, sapete che esistono supposte effervescenti? Domanda, qualcuno le ha mai provate? No, qui in redazione nessuno. E l'ultimo saluto a Flavio, oggi è l'onomastico di una malattia venerea, è San Candida. Ciao Flavio. Grazie, grazie di esistere. Vi do un appuntamento domani sera al Charlot, Colle Salvetti, gli amici pisani e livornesi. Pane, burro e rock and roll. E i toscani in generale, sarò lì con Dome la Muerte. La tua colazione rock. Vai che è finita anche quest'oggi. Pane, burro e rock and roll. Per tutti quelli che si giocano le nostre terzine, si divide, ricordatevelo. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Yeah. Buongiorno Garavelli. Buongiorno. Come va, in forma oggi? Formissima. Sì o no? No. Sì, sì, sì. In forma medio. Esatto. Vi terrà compagnia il buon Gara fino alle 12. Yes. Quando arriverà poi Mox, taglio le dita se tocchi un vinile Crista d'Oro. Giusto? Sì, ma anche se tocca il banco gliele tagliamo noi. Fai quei danni. Questa mi sembra una buona idea. Noi ci si risente, se lo vorrete, domani alle 7 precise. E fino alle 9 ci sarà ancora pane, burro e rock and roll. Garavelli, trattameli male. Tranquillo.